in primo piano. Buongiorno, buongiorno a tutti da Giulia Crivelli. Oggi 4 di gennaio, giornali tornati alla quasi normalità, un po' fuori dalle festività. E naturalmente l'apertura, come ci si poteva aspettare, di tutti i giornali, come vedremo, è sul debutto in Fiat del doppio titolo, uno che riguarda le attività legate all'auto di Fiat e l'altro tutte le altre attività industriali. Titoli un po' diversi o molto diversi, e soprattutto molto diversi commenti anche qui, come vedremo, e poi tantissime altre notizie. Cominciamo quindi proprio dalla Fiat. Lo ricordiamo, ieri alle 9 l'avevamo ricordato questo debutto, oggi ci sarà la seconda giornata di contrattazioni, si spera che andrà tutto un pochino più liscio, ci sono stati alcuni problemi ma i debutti sono così, e quindi poi vedremo appunto alle 9 come va il secondo giorno del doppio titolo Fiat in borsa. Cominciamo però dal Corriere della Sera. La borsa promuove Marchionne, il manager: se vince il no saltano gli investimenti a Mirafiori. Il no naturalmente è il no al referendum che si sta svolgendo tra i lavoratori sul piano appunto destinato al rilancio di Mirafiori. Vi segnalo il commento di Massimo Gaggi: cosa conta davvero per chi investe? Ne leggiamo le prime righe. Nonostante la battaglia di Mirafiori e i ripetuti crolli del mercato italiano dei veicoli, questa è l'altra notizia di ieri, ma d'altro canto le vendite di auto sono un po' in calo dappertutto, è uno dei sintomi della crisi economica globale, questo l'ho aggiunto io, sembra che chi investe su Fiat scommetta più volentieri sull'auto che su camion e trattori. Il primo responsabile degli investitori alla scissione della Fiat a 112 anni dalla nascita della fabbrica torinese ha sorpreso qualche analista, e questo commento, lungo commento, continua poi a pagina 34 del Corriere della Sera. La Repubblica: se vince il no salta Mirafiori. Vedete qui quindi l'enfasi è più appunto sul referendum che non sulla prima giornata in borsa dei titoli, però nel sommario bene i titoli in borsa ma crollano le vendite auto. Qui vi segnalo all'interno di R2, il supplemento, non il supplemento tanto ma quanto il dorso di Repubblica di approfondimento lanciato qualche anno fa, il commento Capitale Democrazia di Luciano Gallino, uno storico dell'economia. Qui c'è un problema serio di rapporto tra il capitale e la democrazia. Non l'ha detto uno dei soliti sindacalisti che a quanto si legge ostacolano la modernizzazione produttiva, ma degli economisti, e qui chi vuole leggere il commento a pagina 29 di Repubblica, cioè all'interno appunto di R2. C'è un'intervista al ministro del lavoro Sacconi: basta ideologie, i diritti non sono stati svenduti. Questo la Repubblica. La Stampa, restiamo appunto sempre, poi vedremo gli altri argomenti, ma era per appunto fare una panoramica su come si può trattare la stessa notizia in un modo diverso fin dal titolo. La Stampa: la borsa promuove la nuova Fiat. La Stampa, il quotidiano di Torino per eccellenza. Volano le tue azioni, ottimista quindi la Stampa. Marchionne: possiamo produrre con o senza FIOM. Questo l'avete sentito anche nei GR, lo risentirete sicuramente durante la giornata. È l'altro tema che riguarda la Fiat, cioè questo referendum e il fatto che la FIOM, la parte del sindacato legato alla CGIL, cioè il sindacato dei metalmeccanici della CGIL, abbia appunto detto già di no. Sul Sole 24 Ore anche qui la doppia Fiat vince in borsa. Piazza Affari premia il debutto della doppia Fiat. Vi do un po' di numeri appunto per capire cosa vuol dire vince in borsa. Dopo la scissione in due realtà, la Fiat Spa, cioè auto, ha chiuso a 7,025 euro, in rialzo del 4,9%. L'Industrial, camion e trattori, a 9 euro con un rialzo del 3%. I due gruppi segnano una capitalizzazione del 3,8% superiore rispetto alla chiusura dello scorso 30 dicembre, l'ultimo giorno di contrattazioni prima del debutto del doppio titolo della vecchia tra virgolette Fiat. Qui il commento è di Giuseppe Berta, un altro storico dell'economia: con la quotazione distinta in borsa di Fiat e di Fiat Industrial si è compiuto ieri, oltre che un passaggio determinante nell'assetto dell'impresa, una trasformazione destinata a incidere sulla struttura e sul carattere dell'industria italiana. Scindendo il comparto delle autovetture da quello dei veicoli industriali e delle macchine movimento terra, la Fiat ha definitivamente abbandonato la propria configurazione novecentesca e insieme con essa un modello di crescita fondato sull'aggregazione di attività non omogenee. Il Sole 24 Ore ha come richiamo in prima poi una notizia che vedremo, è l'apertura dell'altro grande quotidiano economico finanziario europeo che è Financial Times. La notizia è quella che riguarda Facebook, ve la segnalo appunto perché l'altra grande notizia economica di oggi: Facebook record, Goldman Sachs, la banca d'affari, la valuta 50 miliardi di dollari, e appunto Passiamo un attimo a Financial Times, che titola proprio nel suo dorso Finanza e Mercati, in prima pagina, Goldman deal values Facebook at $15 billion, cioè l'accordo con Goldman fissa il valore di Facebook a $50 miliardi. Il dorso invece di Finanza e Mercati apre sulla notizia di Fiat. C'è qui però non tanto sul debutto della doppia azione Fiat, ma su un'altra notizia che riguarda Fiat. Fiat dà segnali di voler aumentare la quota in Chrysler, questo il titolo di Finanza e Mercati. E poi nel sommario, invece, nel dorso Finanza e Mercati di Financial Times, nel sommario il gruppo separa auto e attività industriali, quindi la notizia naturalmente c'è, però secondo Financial Times è più interessante quest'altro aspetto che vi segnalo, per fare comunque continuare un po' i paralleli tra i giornali italiani e in questo caso Financial Times. Il giornale titola Tremonti non fare fini, poi con un titolo generalmente economico sui rapporti all'interno del governo con il ministro dell'economia, e poi però nel sommario c'è la notizia di Fiat, la notizia del giorno: Marchionne supera l'esame borsa, ringrazio il governo. Bisogna però andare alle pagine interne del giornale, pagine 2 e 3 per una pagine, scusatemi, 6 e 7 per un approfondimento su Fiat. E però in queste pagine c'è un'intervista a Marchionne, e l'ultima domanda richiama il titolo di Financial Times, perché l'ultima domanda di Pierluigi Bonora a Marchionne è: Fiat al 51% di Chrysler già quest'anno? Ci sto pensando, risponde Marchionne, ci penso sempre. Se Chrysler va in borsa nel 2011 dovremo accelerare l'opzione, dipende dal timing della quotazione che dovrebbe verificarsi nella seconda metà dell'anno. Il timing della quotazione di Chrysler, avevamo visto ieri, Chrysler per la crisi aveva subito un delisting dalla borsa di New York. Vi segnalo, per restare sulle prime pagine, abbiamo visto Financial Times apre su Goldman Facebook, poi c'è una fotonotizia di una notizia che vi assicuro sui giornali italiani io non ho trovato, l'ho sentita nei telegiornali internazionali ieri mattina e ancora oggi, ed è quella delle inondazioni che ci sono in Australia. L'Australia è stata, soprattutto lo stato del Queensland, è stata letteralmente inondata. Qualcuno ha usato naturalmente l'aggettivo biblico. Il Financial Times ha questa fotonotizia che chiama Sign of the Times, segno del tempo, ogni volta che ci sono questi estremi, che si manifestano queste estreme condizioni meteorologiche, si tira in ballo il riscaldamento globale. Sempre dalle prime pagine dei quotidiani, Liberazione, non sottoscrivo ricatti, questo è il titolo di Liberazione, è un virgolettato di Maurizio Landini, che è il numero uno della FIOM, appunto il sindacato dei metalmeccanici della CGIL. Il Manifesto marchionnemente, con una foto di Antonio Albanese nel suo personaggio, in uno dei suoi personaggi più famosi, adesso mi sfugge il nome, è quello che è andato anche da Fazio a Che Tempo Che Fa, il finto politico. Se vince il no, nessun investimento a Mirafiori, e qui si appunto, come naturale, il Manifesto punta più sulla componente del referendum su Mirafiori che non sulla quotazione. L'Unità, ultimatum, anche qui è l'ultimatum di Marchionne al sindacato. Il Messaggero, Fiat sì della borsa al piano, anche qui naturalmente con molti commenti, è una intervista di Oscar Giannino a Antonio D'Amato, che è l'ex presidente di Confindustria, che poi dice: ora Confindustria deve rilanciare sulle riforme. Questo è il messaggio di D'Amato nella intervista a Oscar Giannino, richiamata in prima pagina sul Messaggero. L'Avvenire, anche qui l'apertura dell'Avvenire naturalmente è sull'attentato di Capodanno ai cristiani in Egitto, copti tante voci con il Papa, però c'è anche sull'Avvenire, per restare su Fiat, la notizia appunto della doppia quotazione di Fiat. Fiat arriva all'ultimatum di Marchionne e la borsa promuove il nuovo assetto. Il Giorno, nuova Fiat sprint in borsa, quindi anche in questo caso il titolo è sempre su l'apertura del giornale è sempre su Fiat. Libero, il giorno perfetto di Marchionne, anche la borsa boccia la FIOM. Il commento è di Ugo Bertone: una partenza sprint, definisce Ugo Bertone quella di Fiat. I titoli delle prime pagine dei giornali sono tutte dedicate a Fiat. Ieri ha debuttato con successo il doppio titolo Fiat, e quindi Riprendo un attimo dall'Avvenire, perché oltre abbiamo visto ad avere il titolo su Fiat in prima pagina, naturalmente l'Avvenire si concentra sull'attentato di Capodanno in Egitto, che ha fatto 21 morti davanti a una chiesa di cristiani. L'Avvenire scrive: tensioni in Egitto per la strage, dolore e condanna di Benedetto XVI, l'abbiamo visto anche ieri, l'Avvenire ieri non era in edicola. Il premier chiama Mubarak, presidente dell'Egitto, Frattini, tutela delle minoranze o nessun aiuto alla UE. Sempre sull'attentato, sulle tensioni, tensioni religiose, vi segnalo dal Messaggero, dalla prima pagina, un articolo di Francesco Paolo Casavola: la libertà religiosa porta alla pace. L'attentato di Capodanno sulla porta della cattedrale copta di Alessandro d'Egitto, scrive Casavola, mentre vi si celebrava il culto, con oltre 20 morti e 100 feriti, gli scontri dei giorni seguenti tra polizia e dimostranti cristiani rivelano all'opinione pubblica occidentale realtà taciute o mal conosciute. Il grido di dolore e di riprovazione di Benedetto XVI per l'offesa a Dio e all'umanità è stato giudicato dall'imam dell'Università Islamica del Cairo indebita ingerenza. Due punti di vista che giova esplorare. E da qui appunto il lungo commento. Vi ricordo su questo argomento il sondaggio di Radio 24, potete votare sul sito di Radio 24, www.radio24.it, e in particolare si discute dell'apertura di nuove moschee in Italia se ne parla per quanto riguarda Torino. E a questo proposito, insomma, di cercare di comunque trovare sempre un modo per riconciliare posizioni opposte, soprattutto se religiose, che portano magari al fanatismo, vi segnalo dall'Avvenire in prima pagina. C'è sempre il mattutino di Gianfranco Ravasi, questa mattina, dove lui sceglie il brano di uno scrittore o di una scrittrice, è il caso di questa mattina, e lo intitola Uno specchio di cielo. È un brano di Etty Hillesum, che morì a 29 anni in un campo di concentramento, e lei scriveva: ma cosa credete, che non veda il filo spinato, che non veda i forni crematori, che non veda il dominio della morte? Sì, ma vedo anche uno spicchio di cielo, e in questo spicchio di cielo che ho nel cuore io vedo libertà e bellezza. Non ci credete? Invece è così. Torniamo alla prima pagina del Giorno, perché in realtà il titolo, abbiamo visto, è Nuova Fiat Sprint in Borsa, però c'è una grande foto, è la foto di Bossi. Il titolo è molto semplice, una parola: spiato. Sapete che ieri Bossi ha rivelato di aver trovato cimici in casa e nel suo ufficio di Roma e di non aver sporto denuncia. Su questo c'è un piccolo commento su Repubblica di Sebastiano Messina, che vi leggo. Lo stato di Bossi: il ministro Bossi ha una visione assai singolare delle procedure giudiziarie. Prima parla di terrorismo organizzato dalla palude romana quando esplodono due bombe carta davanti alla sede della Lega a Gemonio. Poi dice che i due ragazzi accusati di averle fatti scoppiare non devono andare in galera. Non serve, tra virgolette. Lo stesso giorno si scopre che ha trovato delle microspie a casa, in ufficio, e non ha fatto nessuna denuncia. Abbiamo chiamato un privato per la bonifica, tanto un'inchiesta non trova niente, di nuovo virgolette. La vera differenza tra Berlusconi e Bossi, in fondo, è tutta qui, scrive Sebastiano Messina. Uno vuole risolvere politicamente le sue grane con la legge, l'altro vuole risolvere fuori dalla legge le sue grane politiche. Sono complementari e hanno in comune una cosa: a nessuno dei due importa un fico secco di quello che noi chiamiamo Stato. Un po' duro, forse, però forse ci possiamo riflettere su questa decisione di Bossi, appunto, di non di fatto poi, dopo le sue rivelazioni, un'inchiesta è stata aperta, però dopo che lui ha cose fatte, diciamo, ha bonifica fatta. Ritorno sulle prime pagine dell'Avvenire per un altro spunto, e naturalmente la vicenda Battisti. Sapete che è stata negata l'estradizione di Battisti, che è accusato di 4 omicidi in Italia, e l'Avvenire ricorda che oggi ci saranno proteste in molte città d'Italia per questa mancata concessione, appunto, dell'estradizione. Tra l'altro, come avrete sentito nei GR e come sentirete poi magari anche oggi in ulteriori aggiornamenti, gli avvocati di Battisti hanno addirittura chiesto la scarcerazione di Battisti, naturalmente in Brasile, per renderlo un uomo libero, se non altro in Brasile. E su questa vicenda vi segnalo la Macca di Michele Serra sulla Repubblica, che vi leggo. lascia di stucco la pervicacia con la quale alcuni intellettuali francesi, tra cui Bernard-Henri Lévy e Fred Vargas, si battono perché Cesare Battisti non sconti la sua pena. La sola buona ragione percepibile sarebbe quel generico umanitarismo che si applica a qualunque reo e rende doloroso qualunque ingresso in carcere, specie a 30 anni di distanza dai fatti. Ma non è questo, purtroppo, il punto. Il punto è che il terrorismo rosso, che fu una guerra feroce contro singoli cittadini italiani, gode ancora in quegli ambienti parigini di una giustificazione politica. Viene promosso a guerra contro lo Stato, a sua volta degradato a Stato autoritario e antidemocratico. Di qui l'idea che le sentenze emesse da quello Stato siano equiparabili a una vendetta di parte e che oggi, finita quella guerra, debba prevalere uno spirito di amnistia e di pacificazione. Basterebbe che da Parigi avessero l'umiltà di chiedere il soccorso intellettuale di chi in quegli anni viveva e pensava in Italia, per sapere che le cose stavano così solo nella visione dei terroristi, che era una visione di guerra a qualunque costo. Nella realtà delle cose, una comunità nazionale, con il consenso della quasi totalità dei suoi cittadini, si difese dal terrorismo applicando le proprie leggi. Eventuali errori giudiziari ci furono ed eccessi punitivi ci furono, non giustificano altra lettura di quegli anni e di quella storia scritta col sangue di molti innocenti. Lo segnalo appunto perché è di Michele Serra, che lui dice il soccorso intellettuale di chi c'era, sottintendendo anche egli stesso, lui c'era in quegli anni, e appunto evitando, consiglia ai francesi di evitare questi giudizi che danno, non conoscendo in realtà quello che è successo, forse non conoscendo neanche il paese Italia come è oggi. Torniamo un attimo alla Fiat, perché vi segnalo una cosa curiosa, che sia il Foglio sia il Riformista, che sono due quotidiani di opinione, ma di opinione spesso diversa, anche se poi entrambi ospitano di nuovo opinioni diverse rispetto a quella che è l'impostazione, che è sostanzialmente un'impostazione di centrodestra per il Foglio e di centrosinistra per il Riformista. Entrambi però sulla vicenda Fiat hanno interpellato lo stesso storico dell'economia, cioè Giulio Sapelli. Ed è curioso che il Riformista, che lo riporta l'opinione di Sapelli come una vera e propria domanda e risposta, ne dia quasi, sembra, insomma, leggerli tutti e due sembra quasi che non abbia detto le stesse cose, però insomma forse sono solo state portate in modo un po' diverso. Il Riformista, vi leggo l'ultima domanda dell'intervista, chiede a Sapelli: quindi Marchionne è molto meno rivoluzionario di come appare? E Sapelli risponde: la Lee del Lingotto presenta un'immagine dirompente perché l'Italia è priva di imprese manifatturiere che pensino in grande. E anche sulla minaccia di Marchionne di estromettere le due nuove società di Confindustria sono scettico. Ma è bene che l'associazione degli industriali, come i sindacati, pensassero e agissero in un orizzonte sovranazionale nei vari settori produttivi, abbandonando ogni provincialismo. E invece sul Foglio c'è questo articolo dove appunto il Foglio dice: abbiamo sentito Giulio Sapelli, storico dell'economia, cravatta e pazienza, cosa serve a Marchionne per convincere? Il titolo dell'articolo e il virgolettato è: se è vero di Sapelli, se è vero che i sindacati li fanno gli iscritti, questi ultimi devono avere una rappresentanza anche se fanno parte di un sindacato non firmatario. Non si può costruire un nuovo diritto del lavoro partendo così. E poi vi segnalo, tornando alla vicenda Battisti, dal Corriere della Sera invece un'intervista ad Arrigo Cavallina, che è stato uno dei fondatori dei PAC, quell'organizzazione a cui Battisti ha detto di appartenere. Dico detto di appartenere perché ha dichiarato questa appartenenza una volta finito in carcere. Comunque, il gruppo armato in cui militò il terrorista condannato era un malavitosetto, scrive Cavallina, gioca a fare la vittima. Non si è mai assunto le sue responsabilità. Se avesse detto la verità al processo, oggi sarebbe fuori da un pezzo. E su invece torniamo a temi un pochino più, ma anche questo è un tema in realtà, stavo dicendo temi un po' più sovranazionali, però in realtà questa vicenda Battisti, abbiamo visto, oppone di fatto l'Italia al Brasile o almeno le due diplomazie, quindi forse è sovranazionale anche quella, anzi lo è senz'altro. Però in tema di globalizzazione, il tema sovranazionale per eccellenza, vi segnalo la pagina di commenti analisi del Financial Times che titola: il 2011 sarà l'anno della ritirata della globalizzazione. Il Financial Times ha chiesto a quattro illustri commentatori di dare un'opinione appunto sulle grandi quattro aree dove la globalizzazione fa sentire i suoi effetti, cioè la politica, l'economia, la tecnologia e l'Asia. E Peter Mandelson, ex commissario al commercio dell'Unione Europea, poi del governo di Brown e ora commentatore autorevole editoriale britannico, dice che la politica deve ancora avere un ruolo. Questo è un po' il titolo un po' banalizzante, però il ragionamento è appunto che non si può lasciare che l'economia in tema di globalizzazione si autogoverni. Joseph Stiglitz, l'economista, dice che ci sarà un vero global reversal, cioè un'inversione di tendenza appunto rispetto a questa corsa folle verso la globalizzazione. Nandan Nikelani, che è l'autore di un libro sull'India che Financial Times ha interpellato sul tema dell'Asia, dice: attenzione a quei miliardi di consumatori, di cittadini asiatici che vogliono ancora entrare a far parte di fatto nella comunità del mondo cosiddetto sviluppato. E infine Eric Schmidt, che è il chief executive, l'amministratore delegato di Google, che dice: soltanto sistemi chiusi possono trattenere lo sviluppo dell'economia mondiale, quindi non sistemi chiusi tecnologici ma sistemi aperti. Dal Corriere della Sera vi segnalo, a proposito di Inghilterra e del governo di David Cameron, di cui non fa più parte Peter Mandelson, perché naturalmente Peter Mandelson faceva parte del Labour, David Cameron sappiamo è un leader dei Tories, dei conservatori, e ha formato questo governo insieme ai liberali, e quindi questa coalizione mista. Da Londra arriva questa notizia: il paziente inglese prenoterà il medico a New Delhi. Fabio Cavalera, corrispondente da Londra, spiega che, costretto a tagliare le spese, il governo di David Cameron pensa di istituire call center o di far custodire cartelle cliniche all'estero. Drastica proposta per salvare la sanità pubblica britannica: delocalizzare alcuni servizi in India. Quello naturalmente del costo della sanità pubblica è un tema che riguarda tutte le democrazie occidentali, anzi riguarda tutti quanti, perché come sappiamo spesso, e vedremo anche più tardi se c'è tempo, un approfondimento sulla sanità pubblica in Italia, in particolare in Calabria, spesso appunto la sanità pubblica fa molta fatica a contenere i propri costi e a non pesare troppo sui bilanci dello Stato. Segnaliamo sempre dal Corriere della Sera invece un articolo che forse qualcuno ricorderà, chi ci ha seguiti ieri era sul secolo XIX, perché è una notizia che viene da Genova, è da quella che riguarda i super vigili antimovida, spray e tute speciali. Erika Della Casa riprende appunto questa notizia che viene da Genova: un nucleo addestrato tutti magri e agili, così le vuole l'assessore alla sicurezza che appartiene all'Italia dei Valori nella giunta che governa il comune di Genova, che governa Genova, e questi vigili avranno uno spray al peperoncino, le manette, che in realtà fanno già parte della dotazione dei vigili genovesi, e la pistola, già in dotazione, è l'unica vera, tra virgolette, arma di cui dispongono i vigili. Dal Corriere della Sera vi segnalo, in tema di globalizzazione, un articolo di Lorenzo Salvia sul fatto che ci sia in Italia un boom dello studio del cinese, corsi in 100 istituti perché serve agli affari, e ci sono anche dei casi in cui vengono avviate delle sperimentazioni dello studio del cinese alle scuole elementari. Soltanto in Lombardia, spiega Lorenzo Salvia, lo studiano 1500 ragazzi italiani. Vi segnalo dal Corriere della Sera un tema che il Corriere della Sera ha nelle pagine che riguardano Milano, ma che credo che poi in realtà si potrebbe anche estendere a tutti, ed è quelli che saldi tutto l'anno. A Milano cresce l'e-commerce e si risparmiano tempo e denaro. L'e-commerce è questo che viene considerato il canale distributivo del futuro, cioè comprare su internet vale soprattutto per l'abbigliamento e gli accessori, ma tantissimo anche per la tecnologia, e c'è il grande universo delle aste, però si possono anche fare degli acquisti normali, considerando appunto il negozio virtuale come un negozio normale. La chiave di volta è stata forse il miglioramento delle spedizioni, la maggiore efficienza, e così appunto su internet c'è il boom di vendite, e più difficile regolamentare i saldi, perché su internet è più difficile regolamentare tutto e quindi anche i saldi. Sono le 7:45 e 53 secondi sul nostro orologio, e in questo momento chi è a Milano ha una visione privilegiata dell'eclissi. Dal Corriere della Sera: l'ora dell'eclissi, dalle 7:45 il sole viene oscurato dalla luna. Milano, il miglior punto di osservazione, uno spettacolo che si ripeterà nel 2026. L'evento durerà fino alle 10:40, gli occhi devono essere protetti per evitare danni alla retina, appunto quando si guarda direttamente l'eclissi. C'è sul Corriere della Sera un bel approfondimento di Armando Torno che ripercorre la storia dell'eclissi, eclissi, o meglio, come gli uomini hanno visto, raccontato le eclissi o immaginato le eclissi, gli indiani sparavano all'astro aggressore. Questo è il titolo del pezzo. Poi c'è una citazione di Giacomo Leopardi che diceva: le divinità predisposero le eclissi per spaventare i mortali di tempo in tempo. C'è una foto degli anni 10 con signore in abito lungo che guardano da cannocchiali, un disegno che risale al 700, perché le eclissi ci sono sempre state, una foto degli anni 60 dove le persone che guardano le eclissi si proteggono gli occhi, appunto proteggono la retina con quelle che sembrano delle cartoline ma che sono probabilmente appunto dei piccoli filtri. E poi negli anni 90 ci sono state parecchie eclissi. La foto pubblicata dal Corriere della Sera è di quella del 1999, una foto scattata a Bucarest. Quindi se siete a Milano, ma anche se non siete a Milano, è il momento di, se siete curiosi, di guardare le eclissi. Dal Corriere della Sera vi segnalo poi un articolo molto curioso: Gerusalemme, dove fallì Obama, trionfa lo sponsor delle scarpe. Che cosa è successo? Che l'Adidas, sponsor della maratona di Gerusalemme, è riuscita a far cambiare percorso alla maratona. La maratona di Gerusalemme si terrà il 25 marzo e questa gara non passerà dai quartieri ad est occupati da Israele. Per l'edizione 2011 ci sarebbe stata appunto il 25 marzo 2011, se questo percorso non fosse stato deviato, e ci aveva provato anche Obama, dice il Corriere, senza riuscirci, ci sarebbe stato un vero e proprio caso diplomatico. Questa era una notizia così a cavallo tra sport e politica, ma lo sport a volte può unire le persone, unire i mondi. Questa può essere una specie di maratona della pace. Passiamo alla Repubblica. La Repubblica richiama in prima pagina, e poi c'è un'intera pagina all'interno, pagina 17, il rischio dello stand-by, cioè tenere in stand-by i nostri ormai molteplici elettrodomestici. Lo stand-by manda in rosso la bolletta. A volte infatti spegniamo ma resta accesa quella lucina rossa e si continua a consumare elettricità. Me lo ha spiegato il nostro collega del Sole 24 Ore, esperto di energia, Jacopo Giliberto. Persino i caricatori dei telefoni non staccate semplicemente, proprio staccateli del tutto, perché sennò addirittura si rischiano delle sorprese indecifrabili, quando, a meno che poi non ce lo racconti un'inchiesta come questa. E ci ricorda appunto Caterina Pasolini in questo articolo: PlayStation e Xbox spenti o accesi consumano 5 volte, c'è una differenza di 5 volte di più di un frigorifero, quindi staccare tutto quanto. Dalla Repubblica vi segnalo poi nella sezione R2, quella che dicevamo è la sezione di approfondimento di Repubblica, spesso dedicata a temi culturali, e questo è un bellissimo lungo articolo di Natalia Aspesi intitolato Le signorine dei fumetti. L'evoluzione della figura femminile nelle graphic novels. Graphic novel, questo termine un po' pomposo per indicare sostanzialmente dei libri a fumetti, anche se poi negli ultimi anni appunto non è più il classico fumetto che conosciamo in Italia. La graphic novel è appunto spesso un romanzo a fumetti. L'ultimo esempio, secondo Natalia Aspesi, arriva da Posy Simmons, che è diventata addirittura un film di Stephen Frears, ma c'è appunto un'evoluzione da Barbarella a Tamara Drew, come cambia l'eroina, e il disegno scelto per illustrare questo pezzo è di Roy Lichtenstein, che c'è questa ragazza al telefono, o oh Jeff I love you too, but sapete, uno dei famosi disegni di Lichtenstein che è diventato un artista sostanzialmente pubblicando delle grandi vignette che sembrano appunto delle vignette tratte dai fumetti. E dalla Stampa vi segnalo un'interessantissima inchiesta di Sandro Cappelletto, un dossier: il sostegno al terzo mondo, cooperazione, il fallimento dell'Occidente. I paesi africani più legati agli aiuti non crescono, c'è intesa, la catena della solidarietà va riformata. E viene citata un economista, Dambisa Moyo, che tra l'altro ha anche scritto un bellissimo libro che si chiama La carità che uccide, e interpellata da Sandro Cappelletto per questa inchiesta dice: gli obiettivi umanitari indicati come possibili dal Millennium Development Goals per il 2015 appaiono irraggiungibili. Tra il 1981 e il 2002 il numero di africani che vivono sotto la soglia della povertà è raddoppiato. L'assistenza senza limiti offerta ai governi africani ha aumentato la dipendenza economica, incoraggiato la corruzione, in definitiva perpetuato la povertà. E il filosofo africano Kizerbo, sempre citato in questo articolo, che diceva: aiuta solo l'aiuto che aiuta a eliminare l'aiuto. E poi vi segnalo un argomento di cui tra l'altro ieri proprio qui a Radio 24 ho sentito un servizio di Paola Nania, oggi ne parla La Stampa: le donne afghane in TV si confessano mascherate. C'è questo programma che viene definito programma shock a Kabul, ripreso dalla CNN, vengono messe in scena le storie degli abusi e delle violenze sulle donne afghane. Passiamo un attimo a sempre dalla stampa, una notizia di sport, perché c'è questo retroscena di cui io non sapevo niente. Ronaldinho all'Inter sarebbe stato il colpo di Leonardo, che salta però per una clausola. Questa quindi la notizia. Un po' invece di Ronaldinho sappiamo che ormai è probabilmente in viaggio per il Brasile. Un altro brasiliano dal passato e dal presente calcistico un po' tormentato, quello di Adriano, anche lui un ex interista, che ha giurato fedeltà alla Roma. Ha detto: benché sia tornato in ritardo dalle vacanze brasiliane, qui sto bene e resterò almeno 3 anni. Torniamo al Sole 24 Ore, pagina interna del Sole 24 Ore. C'è un'intervista che vi segnalo di Eugenio Bruno a Roberto Calderoli. Dice: sì al fisco municipale o si va al voto. Quindi si torna a parlare A di federalismo e B di elezioni anticipate. Calderoli: nessun ultimatum, solo buonsenso. Cedolare secca con sgravi per gli inquilini. E siccome di federalismo parla anche la Padania, che è, vi segnalo, l'unico articolo che appunto non ha messo la notizia di Fiat in prima pagina, ma il federalismo. Bossi: il federalismo deve passare. Calderoli appunto dice: gennaio, mese decisivo. Allora non si capisce bene se ci sia un ultimatum o meno. Comunque sicuramente di questi temi e di elezioni anticipate si continuerà a parlare nei prossimi giorni. Dal Sole 24 Ore un'intera pagina, tra l'altro con un'infografica bellissima che dà l'idea di questa impennata, un aumento lungo un giorno, l'impennata di che cosa? Delle materie prime, un'inchiesta di Nino Ciravegna con anche un approfondimento di Luca Davi. Al 2011% la somma dei rincari dei prodotti che usiamo quotidianamente. C'è un lunghissimo elenco che va dal cacao, che il cacao e il tè in realtà sono le uniche due materie prime che hanno subito dei cali, rispettivamente circa del 9% e del 4%, tutte le altre sono aumentate tantissimo. Ieri avevamo visto sul Corriere della Sera l'approfondimento sull'aumento della lana e del cashmere. Qui ci sono in realtà tutte le materie prime, dallo zucchero all'olio di palma, alla gomma, al tungsteno, il mais, il palladio, lo zafferano anche. Anche lo zafferano è aumentato del 138,13%, ci segnala il Sole 24 Ore. Dalla pagina di Cultura e Tendenze del Sole 24 Ore, forse sicuramente gli lettori attenti del Sole 24 Ore lo sapranno, da circa un anno anche il Sole 24 Ore ha una pagina quotidiana dedicata alla cultura, un articolo di Christian Rocca da New York sul Colossal di Broadway, quest'anteprima su Spider-Man, il Colossal di Broadway, quindi un musical visionario, lo definisce Christian Rocca, da record fin dai costi. Effetti speciali, un musical voluto da Bono Vox naturalmente degli U2, con regia di Julie Taymor, scene sorprendenti però secondo Christian Rocca un po' da perfezionare. E visto che citiamo questa pagina di Cultura e Tendenze del Sole 24 Ore, c'è anche la notizia della morte di Pete Postlethwaite, volto tragico e dignitoso, padre simbolo. Lo ricorderete sicuramente nel Nome del padre, un film per il quale Pete Postlethwaite, che è morto a 64 anni, a soli 64 anni, era stato candidato all'Oscar, però forse lo ricorderete anche come uno dei protagonisti dei Soliti Sospetti. E torniamo all'Africa, per un tema che avevamo sfiorato anche ieri, che è quello del referendum in Sudan, che si terrà domenica prossima, domenica 9 gennaio. Sudan a rischio scissione, scrive l'Unità, il Sud vuole l'indipendenza. Qui avevamo visto come questa questione è da tenere sotto controllo, anche perché anche lì c'è un tema religioso che si innesta su quello dell'indipendenza. Il Nord è a prevalenza musulmano, mentre nel restante territorio la maggioranza è cristiana. Dal Messaggero, la pagina di Cultura e Spettacoli, segnalo un articolo di Luca Ricci e poi c'è anche un'intervista a Baricco. L'articolo è "Scrivete e moltiplicatevi". Che cosa è successo? Che negli ultimi anni si sono moltiplicate le scuole di scrittura, lezioni ed esercitazioni anche solo nei fine settimana, ospiti magari di un castello, di un relais, di una spa, oppure veri e propri corsi lungo tutto l'anno come quelli della scuola Holden di Baricco. Dal Messaggero approfitto per segnalarvi, e credo sia l'ultima segnalazione che facciamo in tempo a fare oggi, quella sulla tassa di soggiorno. Sapete, la tassa è introdotta dal Comune di Roma, come tutti i comuni è a caccia di finanziamenti. Questa è una tassa che è stata introdotta anche per risanare i conti del Comune, dice il Messaggero. Tassa di soggiorno, bollino elettronico contro l'evasione. Restano infatti un po' di incertezze su come riscuotere questa tassa, che è in vigore a Roma dal 1 gennaio, e che riguarda tutti gli hotel, i campeggi, e mentre sono esonerati i residenti naturalmente e i minori di 10 anni. Entro l'anno pagamenti via internet, ma il presidente della Fiavet, degli operatori del turismo, dice a rischio gli arrivi dei grandi gruppi e del turismo congressuale. Questa è un po' l'ultima cosa che riusciamo a segnalare oggi, ma mi raccomando, come vi ho raccomandato ieri, comprate tanti giornali, sono pieni di notizie particolari, di approfondimenti, e invece ora vi lascio al GR, soprattutto per gli aggiornamenti. Buona giornata a tutti da Giulia Crivelli.